Il progetto Voci si è avviato nell'anno 2013 ed ha avuto cadenza annuale. Si tratta di un insieme di laboratori su un tema a carattere storico sollecitato da un appuntamento anniversario. Si inizia in autunno e si conclude il 25 aprile, avendo scelto una data significativa per il completamento e la restituzione di un impegno che coinvolge molte persone. Infatti il progetto Voci si chiama Voci perché muove, sollecita, recupera, vitalizza voci diverse di un fatto storico importante di allora e di ora. Il primo anno, la Resistenza, dedicato alla Resistenza, cominciamo nell'autunno 2013 e il 25 aprile 2014 furono presentati gli esiti di numerosi laboratori che avevano preso in considerazione le voci dei protagonisti della Resistenza, le voci dei testimoni della Resistenza, voci dell'epoca o voci successive, memorie scritte dopo, anche le voci della storiografia che aveva valutato la Resistenza nelle varie fasi della lunga storia del nostro dopoguerra, ma anche le voci di coloro i quali oggi affrontano questi temi storici. E dunque i nostri laboratori hanno coinvolto e messo in campo le voci di studenti di scuole secondarie di secondo grado, di giovani in carico alla giustizia minorile, di adulti e di anziani, di centri sociali e dell'Università Primo Levi, che fu coinvolta per molto tempo in questo progetto. Furono coinvolti per mettere in movimento queste voci relativamente al fatto storico, ma anche relativamente alle sue possibilità di lettura e di rappresentazione, dunque laboratori di storia, laboratori di scrittura, laboratori di scenografia, laboratori di arte, laboratori di musica ed altri ancora, non sempre gli stessi. A volte abbiamo avuto una maggiore partecipazione, a volte leggermente più ristretta nel corso degli anni, ma sempre si è trattato di un progetto fortemente corale, il cui esito finale poteva essere una rappresentazione teatrale, un allestimento, un intervento performativo in luoghi sempre diversi della città, riconosciuti come significativi relativamente al tema trattato.